Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Sulla via del Sahel musulmano, Passione Africana fa tappa a Jos, la capitale dello stato nigeriano di Plateau. La città è diventata ormai il teatro dello scontro etnico e religioso che minaccia il paese. Il monastero agostiniano è stato attaccato da giovani estremisti islamici che sono stati respinti. Un attacco sventato che non ha però cancellato la paura. Padre Alex Longs è il superiore della piccola comunità. La ragione è un conquisto dei musulmani, veramente. Quando leggiamo la storia del Jos, è successo almeno 40 anni fa, ma non sono usciti di farlo. Per questa ragione vogliono conquistare questa città, che è al centro di cristiani del nord. Ma è una cosa traumatica anche cambiare la dinamica di vivere come un cristiano. Adesso anche gli studenti miei, sto facendo la terapia con loro, hanno ancora la trauma e quello che sempre loro non capiscono che cosa faranno di più. La relazione è stata troncata, posso dire, ma anche tante cose, anche alcuni cristiani che ho parlato con loro sempre dicono perché, perché, perché. Ma alla fine viene un profondo conoscimento di valori cristiani, mi sembra. Ma in questo momento siamo nella prima fase di paura, di ansietà, di rabbia, aggressività, che tutti noi non posso dire che io non porto questo. Anche come un psicologo devo capire me stesso per aiutare gli altri. E questa è una fase che stiamo vivendo adesso. Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.